Disco Della Settimana. We are not made for each other. We dangerous, should not be here together. Can you feel the spikes running through your blood? Do not touch, we should always be apart. But if we are waiting for each other, sentito questo groove che ti ho tirato fuori da questo primo pezzo tratto dal disco della settimana che vi presentiamo oggi, cari amici di Radio Città Fujiko. Ma infatti mi piace molto, sei stato molto bravo Mauro, anche perché rispetto magari agli ultimi dischi che erano molto italiani, come direbbe la Rochelle in Boris, questo mi dà proprio un'idea di internazionalità, cioè mi immagino un po', non so, l'Australia, le spiagge, il tramonto sull'oceano, queste cose qui. Sì, più o meno, diciamo che loro comunque sono una band italiana, quindi non hanno l'oceano, però vengono da Varese, Lombardia, vicino al Lago Maggiore, quindi un pochino di oceano, vabbè, comunque. Beh, forse allora questa idea che mi è venuta è legata al titolo dell'album, perché quest'album si chiama Sky Surfers, quindi ecco, ha un titolo che ti fa venire un pochino in mente l'Australia, i surfisti e queste cose. È l'album che è uscito il 19 novembre, quindi pochissimi giorni fa, e la band si chiama Blue Days. Questo è tra l'altro il loro album d'esordio. Poi secondo me questa questione che mi veniva in mente l'internazionalità è anche che il pezzo che abbiamo appena ascoltato si chiamava Fuel and Cigarettes, quindi ti dà un po' l'idea, no, di benzina e sigarette, proprio fa venire in mente l'Australia. Vabbè, forse ho sbagliato con insomma gli esempi, lasciamo stare, però resta il fatto che quella era una delle 8 tracce che compongono Sky Surfers, che è appena uscito. Io direi che a questo punto ne ascoltiamo un'altra e poi vi raccontiamo un po' di cose dei Blue Days e appunto di questo primo album, del loro lavoro, di come è nato il progetto Blue Days. Vi facciamo ascoltare la prima traccia di Sky Surfers, che è anche uno dei singoli che ha anticipato l'album, che si intitola Hodad. Beh, ti piace allora quest'album? Stiamo scegliendo bene? Beh, c'è quel groove internazionalista. Ho detto una cazzata. C'è quelle sonorità così internazionali. Mi piace il groove, la solarità che c'è dentro quest'album. Beh, che viene definito un po' dream pop e un po' psych. Non lo so, cosa dici? A te sembra che il genere sia quello? Ma c'è un po' quello, ma secondo me hanno preso molto anche dal soul, comunque dalla musica un po' più americana. Americana. Cioè praticamente li stiamo spostando in giro per il mondo, loro no, sono lombardi del Lago Maggiore, niente, cioè nel senso, però noi ce li immaginiamo in giro, chissà. Magari faranno un super tour su un bel furgoncino andando per l'America, l'Europa. Di Woodstock. Comunque, come nascono un pochino i Blue Days? I Blue Days hanno esordito appunto con questo album che è uscito, ricordiamo, il 19 novembre del 2020, quindi poco tempo fa, ma in realtà loro erano amici da molto tempo. Sono quattro amici di Varese che inizialmente cazzeggiano un po' su WhatsApp sostanzialmente, no? Iniziano a parlare di musica, scambiarsi link, canzoni, meme. Poi nel 2017 tutto questo cazzeggiamento, diciamo, si concretizza in realtà in un progetto che prende vita in una sala prove. Nel 2017 iniziano a suonare e intanto a lavorare alcuni brani che saranno poi quelli che troviamo in Sky Surfers adesso. Hanno di fianco a loro una persona che li ha aiutati tantissimo, che è Martino Kuman dei Non Voglio Che Clara, che sostengono appunto sia un po' l'anima di quest'album. Senza di lui non sarebbe stato così questo primo album, ecco. Ci dicono che i piani erano quelli di pubblicare il loro lavoro in primavera, quindi a marzo-aprile 2020. Poi tutto sto macello successo un po' in tutto il mondo, hanno dovuto rivedere un po' i loro programmi, facendo uscire un paio di singoli. Hodad, che è quello che vi abbiamo fatto ascoltare poc'anzi, si dice così, e Dreamwalk, che invece è uscito un pochino di tempo dopo e di cui si trova anche il videoclip. Ma chi sono questi quattro ragazzi? Perché li sentiamo, li abbiamo sentiti, ma non sappiamo i loro nomi. Beh, allora, i Blue Days sono composti da Elisa, la voce e chitarra, insomma, della band, ed è anche stata l'ideatrice, appunto, di questo progetto. Nicolò, che suona la batteria, Manuel suona la chitarra, e Francesco, il basso e il synth. E come dicevamo, la produzione è stata affidata a Martino Kuman dei Non Voglio Che Clara. E anche qua abbiamo trovato un po' quello che loro dicono sul come è stato lavorare con Martino Kuman. E raccontano: potremmo dire che per la realizzazione di Sky Surfers il contributo di Martino è stato decisivo. Grazie a lui abbiamo allargato i nostri orizzonti e lavorato sui nostri punti di forza e sulle debolezze. Ci ha seguiti per diversi mesi a distanza, quindi già prima che ci fosse tutto il macello delle regioni, province e comuni chiusi, loro già si sentivano a distanza. Finché sono arrivati dentro lo studio di registrazione, in cui Martino, loro dicono, ci ha spronati a dare il massimo per ragionare insieme su quale direzione dare ai nostri brani. E aggiungono, sicuramente senza Martino questo lavoro sarebbe stato molto diverso. È stato un pochino il quinto membro dei Blue Days, o il papà dei Blue Days, non so come definirlo. Vabbè, comunque a questo punto andiamo a sentire un altro pezzo estratto da Sky Surfers, che vi ricordiamo che è uscito il 19 novembre, quindi pochissimi giorni fa, e ascoltiamo quindi il secondo singolo, Mauro, Dreamwalk. Love me when I take the lead. Are you the empty? love myself, love me when I want you to love me anymore. Love me when I want to be somebody else and you remains unlived because you don't know what to say. Continuiamo a raccontarvi Sky Surfers, questo bellissimo e piacevolissimo, aggiungerei, album dei Blue Days. Cosa ci dicono i Regaz su quest'album? I Blue Days su Sky Surfers ci raccontano qualcosa e ci dicono, ci chiedono anzi, quanto può essere figo surfare il cielo? Secondo noi moltissimo, ci dicono loro, e poi c'entra con l'equilibrio anche, quell'equilibrio che ci sforziamo di trovare ogni giorno nella nostra vita. Tra tutte le cose che gli altri si aspettano da noi, tra gioia e tristezza, tra luce e ombra, tutte queste cose. È proprio per questo che Sky Surfers ha al suo interno tutte queste sfumature emotive, a volte groovy, altre volte malinconico, poi torna a essere solare, perché tutti noi siamo tutto questo ogni giorno. Beh, è molto bella questa descrizione che i Blue Days fanno del loro album, e probabilmente all'interno appunto di questo album, come dicono a loro, essendo nato anche un po' durante la pandemia, insomma, no, qualcosa è successo anche durante questo lockdown, si riversa quello che loro durante un'intervista hanno definito come un caos emotivo, no? E quindi forse anche tutti questi cambi ci si ritrovano per questo. E infatti per questo 2020 loro raccontano un po' com'è stato. È stato un anno estremamente complicato, sia a livello personale che professionale, come per tutti quanti, direi. Per gli artisti in particolare. E l'impossibilità di pianificare a lungo termine è una condizione frustrante per un artista. Ci vogliono tantissime energie per raggiungere dei risultati microscopici, a causa di fattori sui quali non si ha il minimo controllo. Però si dicono molto soddisfatti della risposta ricevuta coi primi singoli che abbiamo fatto ascoltare, e anche adesso con l'uscita di Sky Surfers, e aggiungono: peccato non potervelo suonare dal vivo, almeno a breve. Ma poi ci spiegano anche che comunque Sky Surfers è un ottimo disco come colonna sonora per impastare le pizze, fare esercizi in casa, fare una passeggiata col proprio cane, cioè, insomma, ci suggeriscono un uso diverso del loro album. Beh, però è perfetto, perché loro magari se lo sono immaginato in un modo e poi le cose sono cambiate, fare la pizza la stiamo facendo tutti, dai, da quando ci hanno richiuso. Fare esercizi, io ne sto facendo un sacco, vero Mauro? Sì, sì, io anche vado a passeggio col cane. Tu vai a passeggio col cane, cioè effettivamente ci hanno dato un input perfetto. Blue Day, Blue Days con Sky Surfers possono essere la colonna sonora che ci alleggerisce un pochino magari in questo periodo. Continuiamo ad ascoltare allora questo album e cosa scegliamo? Ma io farei ascoltare la traccia numero 3 che si intitola FOMO, F-O-M-O, che è una sigla, è un acronimo per l'espressione inglese Fear of Missing Out, cioè la paura di essere tagliati fuori. È una forma di ansia sociale caratterizzata un po' dal desiderio di rimanere in contatto con le attività delle altre persone e la paura di esserne esclusi. Quindi adesso vi lasciamo con FOMO. I can hear him every day. It's my mind he is looking for. He only wants to steal my time. And so you know you're growing up. You start believing that it's worth it. I felt like something was missing in my life. Now I just realized I was made once again. Anche FOMO ha tirato fuori queste sonorità un po' groovy. È un album che ha delle sonorità particolari che vanno dal molto solare, il groove, la voglia di ballare e un po' di malinconia. Quindi è un album che ha queste due sfaccettature e i Blue Days ci dicono anche un po' da dove arrivano le loro influenze musicali. E infatti viene spiegato, e lo possiamo sentire benissimo nelle tracce che vi abbiamo fatto ascoltare, in generale nelle 8 tracce che compongono Sky Surfers, che i loro ascolti sono molto internazionali, ed infatti quello che stiamo ascoltando sembra un album non sempre italiano, come dicevo all'inizio. Però appunto dice, noi un orecchio a quello che sta succedendo in Italia ce l'abbiamo comunque, perché quando hanno iniziato a suonare assieme, spiegano, non si sono dati dei grandi limiti o riferimenti, ognuno di loro ha continuato a lavorare sui propri ascolti, su quello che già ascolta ascoltava principalmente, poi tutto è stato portato assieme in sala prove e diciamo che tutto questo ha trovato uno spazio naturale all'interno di quello che la band ha poi creato, ecco. Però gli ascolti sono tantissimi e appunto citano i Big Thief, Lana Del Rey, Jungle, per citarne alcuni, insomma. Ma ci dicono anche che il segreto di The Real Blue Days Sound, marchio registrato, il vero suono dei Blue Days, è un segreto e non possono ancora rivelarcelo, ma lo scopriremo magari anche ascoltandoli nello specifico brano per brano con attenzione. O anche con quello che faranno in futuro, anche se quando diciamo gli è stato un po' chiesto qual era il progetto futuro dei Blue Days dopo Sky Surfers, appunto dopo questo primo disco, hanno appunto spiegato che è molto difficile anche per loro, essendo artisti, essendo musicisti, fare delle previsioni sul futuro, perché in questo momento effettivamente è molto difficile. Ovviamente gli sarebbe piaciuto fare i concerti, quelli che mi immaginavo io all'inizio col furgoncino, non lo so, però al momento ovviamente è una cosa che è molto delicata da gestire. Non si sa ancora se effettivamente sarà possibile e quando sarà possibile ricominciare. Ma raccontano anche che stanno lavorando ad alcuni brani nuovi, già, che chissà, non anticipano nulla, ma potrebbero magari finire in un secondo album, in qualche concerto dal vivo che speriamo tutti tornino presto perché ci mancano. Ma dicono, per ora ci godiamo quest'onda di entusiasmo per Sky Surfers e la sua uscita e surfiamo l'onda di entusiasmo al meglio. È vero, insomma, alla fine pensiamo al presente e godiamoci quello che abbiamo, godiamoci questo album. E quindi niente, teniamoci anche a mente quello che inizialmente ci hanno detto i Blue Days, quindi cos'è uno Sky Surfers, un surfista del cielo. E niente, facciamo ascoltare l'ultima traccia di queste 8 tracce che compongono appunto questo album, e direi che scegliamo l'ultima, la numero 8, Drive Away. Guidiamo via e vi auguriamo una buona settimana con questo pezzo.